con Fabrizio Pallara insieme a Tamara Bartolini e Michele Baronio per parlare di Ritratto d'artista, Teatro delle Apparizioni, con il nuovo spettacolo I Musicanti di Brema, ma anche una trilogia di spettacoli di Fabrizio. Intanto ben ritrovati tutti. Io comincerei da questa novità, il nuovo spettacolo, I Musicanti di Brema. Intanto raccontiamolo in breve. Allora, I Musicanti di Brema, insomma, fiaba più o meno conosciuta da tutti e amata non da molti, abbiamo scoperto nell'ultimo periodo, forse perché è stata raccontata in tanti modi e forse perché nasconde un segreto che bisogna un po' tirar fuori. Forse è una di quelle fiabe che si nasconde. È la prima cosa che probabilmente abbiamo cercato di fare, che anzi Tamara e Michele hanno fatto prima di incontrarmi, perché poi questa storia, insomma, questa avventura che stiamo facendo nasce l'anno scorso da questa, insomma, da questa richiesta che io ho fatto loro di raccontare una fiaba, e loro hanno scelto I Musicanti. E me l'hanno poi effettivamente raccontata in un modo in cui non l'avevo mai sentita, perché io ero uno di quelli che non amava questa fiaba. Me l'hanno raccontata e me ne sono innamorata per il modo in cui hanno scelto di raccontarmela, però a questo punto direi. Sì, noi invece eravamo molto innamorati di questa fiaba, soprattutto rileggendola con le illustrazioni di Claudia Palmarucci, che ci sono piaciute tantissimo di questa edizione di Orecchio Acerbo. E quando Fabrizio ci ha invitati in questo progetto fatto a Carrozzerie Notte, che è una domenica al mese per 4 mesi, sono stati invitati un artista domenica. Perché una volta non Perché, si può più permettere. esatto, e noi abbiamo deciso di portare la lettura dei Musicanti di Brema a modo nostro, con la musica, le parole e il nostro modo di raccontare delle storie che, anche se lontane, da qualche parte ci riguardano sempre. E questa storia parlava un po' anche di noi, chissà, no? Certo, parla di lavoro, parla, diciamo, di come si può in qualche modo, come dire, continuare a camminare senza perdere la speranza e, come dire, vivere in una forma alta e dignitosa senza che il lavoro ci distrugga, ci levi l'anima, E ecco. poi ci sembrava anche che raccontasse qualcosa che sta accadendo in questo momento, doversene andare da un luogo per andare alla ricerca di qualcos'altro, e questo ritrovarsi insieme, animali diversi, e ciascuno con la sua differenza, però capace di unirsi, di essere solidale e di affrontare quindi le intemperie e di affrontare insieme il cammino, di viaggiare insieme. Ma così sembra un po' troppo dolce, allora c'è Sì, anche Michele che è molto rock. infatti è molto Michele è rock. molto rock, è quasi punk a un Eh certo sì, punto. diciamo che è proprio punk. E in qualche modo c'entra dentro un po' tutta, anche il racconto, contandola musicalmente, un po' tutto il Novecento, a partire dal blues, da cui gli animali partono, che appunto in qualche modo fa riferimento a quei lavori che potevano essere più di campagna, no? Fino ad arrivare a far entrare tutta la controcultura dei movimenti dal 68 al 77, poi. I am Nancy Serie di riletture, insomma, di questi questa epica che gli animali percorrono anche dal punto di vista musicale. Poi l'abbiamo costretto a cantare anche una canzone che lui non voleva, ma noi l'abbiamo costretto Ah, a. Sì. La mia banda suona il rock, l'abbiamo proprio voluta, non mi chiede se non la voleva. Dice, racconti ancora il testo, senti, volevo sapere anche da Tamara e Michele, dopo questa chiamata di Fabrizio, com'è stato lavorare insieme? guarda, è stata ed è una bellissima collaborazione. È proprio uno di quei momenti in cui, anche dopo tanti anni di lavoro, arrivi ad incontrarti e c'è un riconoscimento, seppur nelle differenze, un po' il percorso che fanno i nostri animali. E forse proprio per perché sia un'urgenza, un desiderio e anche la semplicità di dirsi siamo qui e lavoriamo. E devo dire che è stato un grande piacere, proprio una grande orizzontalità, un grande scambio e proprio il piacere di venire alle prove, anche di mettersi, appunto, scambiarsi sicuramente le professionalità, i percorsi fatti fino a qui, ma anche in questo caso affidarsi, no? A noi come attori, Anche a una parte più a Fabrizio. strutturale, no? Che porta Fabrizio, una parte più costruita rispetto magari a un'immediatezza che magari appartiene più alla nostra poetica, e quindi in qualche modo questo incontro sicuramente si è concretizzato piacevolmente per entrambi. Fabri, tu che dici? No, per me la cosa interessante è innanzitutto il fatto che ci siano state due storie. Noi abbiamo vissuto fondamentalmente dentro la città di Roma due storie parallele che ci ha visti insieme in tanti contesti, quindi conosciamo tantissimi anni, e quindi il Rialto, e quindi l'Angelo Mai, e quindi tante strade, diciamo, percorso, no, Carrozzeria Notte all'ultimo periodo, Teatri di insomma, vetro all'inizio. teatri di vetro all'inizio, ovviamente. Quindi, diciamo, è stato bello rincontrarci rispetto a un pensiero sul teatro e sulla vita. E poi il caso ha voluto che anche proprio la vita ci ha riunito, perché abbiamo, appunto, io ho due figlie femmine e loro una figlia, e una, la più piccola, la mia più piccola, va all'asilo, insomma, insieme a te, alla loro figlia. Quindi, come dire, un po' la sensazione che l'arte in questo caso ci abbia fatti rincontrare, un po' per ragionare su e fare il punto su dove siamo arrivati. E quindi anche per me è stato interessante, in questo caso interessante, che la mia chiamata iniziale dell'anno scorso, insomma, abbia chiamato loro, ma loro poi in qualche modo attraverso il loro lavoro hanno chiamato me. Quindi, diciamo, mi trovo a fare un lavoro da regista un po' particolare, nel senso che poi in realtà, ecco, dicevo oggi, sono un po' blando, come detto è vero, nel senso mi risulta molto difficile con loro, come dire, la parola dirigerli è più veramente accompagnarli. Ora Fabrizio, volevo chiederti invece di parlarci di un po' dell'esperienza del Teatro delle Apparizioni e anche degli altri due spettacoli che compongono questa trilogia, ossia Fiabe da tavolo e Tenace soldatino di piombo. Sono, diciamo, altre due esperienze, diciamo, sempre del mio cammino, del cammino, quindi di conseguenza del Teatro delle Apparizioni. Fiabe da tavolo è un progetto che io ho fatto l'anno scorso, e iniziato l'anno scorso, di una volontà di raccontare delle fiabe, piccole piccole, su un tavolino. Quindi un lavoro di microteatro e di narrazione che io, beh, è una cosa, diciamo, che curo da anni, il lavoro di narrazione. Io non sono, diciamo, propriamente un attore, però mi do in prestito quando il regista ha bisogno di me per continuare a crescere, più che altro. E in questo caso forse è stato il contrario, cioè nel senso che mi sono ritrovato a lavorare come attore e a crescere come tale, ed è una cosa che mi ha emozionato molto e che continua a emozionare. Bellissime, le abbiamo viste. Siamo emozionati pure noi. C'è il pubblico, sono attratto. E quindi, diciamo, anche stupirmi nel ritrovarmi in un'esperienza, diciamo, come dire, differente. Cioè, raccontando di questo mi rendo conto che sto cambiando pelle, ecco. Cioè, nel senso che sento il bisogno, dopo tanti anni di regia, di mettermi in gioco anche proprio in altri modi, ma non perché quello che facevo mi annoiasse in qualche modo, proprio perché ho la sensazione davvero di andare, che sto andando avanti, ecco. Quindi sto cercando cose nuove, e la cosa straordinaria è che le cose vanno bene, ma non cerco di ripeterle, ecco. La sensazione è un po' questa. E quindi Fiabe da tavolo, che è un progetto, appunto, molto appena iniziato, perché io racconto quattro fiabe, coppie di due fiabe, e sto lavorando ad altre fiabe. Queste fiabe verranno portate, io le ho fatte, e tutto questo, insomma, questa è una confidenza, non lo dire a nessuno. Le ho fatte per rimanere a Roma, perché io sto spesso in tournée, e alla mia moglie a un certo punto ho detto basta, cioè stai troppo in giro, no? E quindi ho dovuto, diciamo, inventarmi un modo per stare un po' più a casa, e ho pensato che queste fiabe da tavolo potessero portarmi nelle biblioteche di Roma, in luoghi più piccoli a Roma, insomma, che mi potessero, diciamo, sottrarre dalla tournée. E Invece il contrario, l'organizzatrice Sara Ferrari, che invece da questo punto di vista è impietosa, ha detto: no, andiamo ad un festival. Andati al festival, diciamo, mi sono ritrovato quest'anno a fare 2 mesi e mezzo di tournée con questo spettacolo. Quindi adesso andrò a Parma al Teatro delle Briciole, poi al Metastasio di Prato, insomma, ritorno al CSS di Udine, niente, è andata bene e quindi male. Allora, in chiusura, ricordiamo per Sì, l'ultima cosa, sì, come scusami, no? sennò poi ho dato spazio al cult della compagnia. E poi, grande cult della compagnia, 6 anni di tournée del Tenace Soldatino di Ok. Piombo, ha voluto dal Teatro di Roma, perché appunto c'era qualcuno che ancora non l'aveva visto, quindi ci diamo al grande cult e chiudiamo la rassegna, diciamo, con i 3 spettacoli al 24 e 25 febbraio al Teatro India. Benissimo, allora ricordiamo per Ritratto d'artista dedicato al Teatro delle Apparizioni la trilogia al Teatro India. A questo punto la presentate voi tre in chiusura? Sì, la trilogia, in che senso, perdonami? Le fiabe e i musicanti Esatto. e il soldatino. Il soldatino, fiabe, musicanti e il soldatino, che poi sono 3 fiabe, quindi. Ricordate allora le date, dai. Allora, le date, devo dirti purtroppo che le fiabe da tavolo sono finite e le facevo al Teatro Argentina, quindi lo Ok. scorso fine settimana, però vabbè, ma ci sarà modo di vederle a Roma senza dubbio nei prossimi tempi. Per quanto riguarda invece i musicanti, musicanti di Brema al Teatro India Sabato 17, domenica 18 alle ore 16. Invece il Tenace Soldatino di Piombo, 24 e 25 febbraio, sempre ore 16, Teatro India. Michele, Tamara e Fabrizio, un abbraccio, un in bocca al lupo e rivederci presto a teatro. Passaci a trovare. Grazie, Ciao. sì, ti vieni a Ciao, trovare, ciao, ciao. Ciao. ciao.